Poggio. Non funziona, è una battuta, non è un intervento. Beh, io, qui è stata un po' rievocata anche la storia personale dei soggetti antagonisti. La mia storia non interessa a nessuno, ma ovviamente volevo spiegare perché credo che alcuni dei temi posti da Alberto Burgio siano temi assolutamente fondamentali. Il motivo per cui li ritengo tali, anche se a me piacerebbe molto poterli superare, deriva proprio da quello che ha detto nella replica Marco Revelli, cioè è la velocità della trasformazione. Cioè io sono d'accordo in quello, post-fordismo può dire tutto o niente, però mi sembra che sta assumendo, no? Ho avuto un intervento molto, molto concreto di Cristian Marazzi adesso e quello di prima. Cioè, quindi riusciamo a capire che cosa sta succedendo. Però bisogna capirlo fino in fondo. Io per esempio non sono d'accordo invece sul concetto che viene usato di fordismo, dove ci fichiamo tutto con comodità, ma questa è una faccenda quasi da storici, lasciamo da parte, poi magari faremo un incontro a chi interesse sul taylorismo e il fordismo. Ecco, allora la velocità delle trasformazioni. Marazzi prima ha citato il fatto che entriamo in una fase di di non costituzionalità sistematica, strutturale, permanente. Ecco, questo è un punto fondamentale. L'altro giorno, quando Romiti ha proposto di mettere dentro la prima parte della Costituzione i valori del mercato, dicendo che la Costituzione è nata appunto da due culture anticapitaliste, quella comunista e quella, se volete, cattolica, ecco, nello stesso contesto, no, è stato detto esplicitamente che la fase attuale implica, perché ci sono sempre quelli più estremisti, no, di chi ha in mano il pallino. Romiti si è limitato a dire che bisogna modificare la Costituzione con questo tipo di intervento. Altri, mi sembra un economista, Marzano, ha detto apertamente che questa è la fase della destrutturazione dello Stato. Questa è l'esigenza che si pone oggi in Italia, altrimenti non c'è competizione. Ecco, allora, proprio di fronte a questo scenario, io credo che dobbiamo essere attenti ai temi che poneva Alberto e credo che nell'ultimissima fase di discussione, ovviamente si manterranno le differenze, però è possibile fare un pezzo di percorso assieme e soprattutto di analisi, dopodiché ognuno ne fa quello che crede.